Siamo arrivati alla soluzione del quiz, il mio ospite è Furio Onsel. Buonasera Onsel. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, dobbiamo sapere se è più facile fare al Totocalcio 0 o 13. Ma è più facile fare 0, però in realtà è piuttosto difficile fare 0, non è, anche se uno proprio vuole sbagliare, non è facilissimo. Il risultato, se uno li mette a caso o in qualche modo anche ci ragiona, ma non più di tanto, la cosa più probabile, se uno fa il conto, mi sembra che sia o 4 o 5, sì. Non azzeccarne 4 o 5, quindi non azzeccarne nessuno è un po' più difficile, è decisamente più difficile. Però certamente azzeccarli tutti è più difficile ancora. In un caso è 1 su 3 alla 13, no? La probabilità è 1 diviso 3 alla 13, 3 alla 13 è un numero piuttosto grande, parecchi milioni di milioni, adesso bisognerebbe appunto fare esattamente il conto. Invece nell'altro caso la probabilità è, uno ne può scegliere 2, quindi è 2 alla 13 su 3 alla 13. Sì, questo io lo ricavo appunto dal suo libro, L'algoritmo, sì, del parcheggio, di cui parleremo fra poco, perché lei dice, lo scrive appunto nel suo libro, per fare 0 abbiamo una sola possibilità, cioè abbiamo più possibilità, perché dato il risultato di una partita, ce ne sono 2, no? Che non sono, mentre invece per azzeccare il 13 ci vuole, ne abbiamo una sola. Però in realtà è abbastanza difficile fare 0. Certo, sì, e tra l'altro lei giustamente premette nel libro che questo vuol dire usare la schedina in modo, come dire, totalmente acefalo, cioè mettiamo giù dei numeri senza preoccuparci minimamente di come stanno andando le cose nel campionato. Certo, sì, è chiaro che qui si immagina che le 3 uscite siano assolutamente equiprobabili. Assolutamente sì. Equiprobabili. Probabilmente molti di coloro che la stanno ascoltando sanno perfettamente che lei è l'ospite quasi fisso della trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa, e in quella trasmissione lei pone dei quesiti che spesso mettono in imbarazzo gli ospiti, perché non sono facili. Mettono in imbarazzo gli ospiti, però in realtà il pubblico poi anche con l'email e con altre forme di contatto manifesta un notevole interesse. Io penso che appunto c'è un certo bisogno da parte del pubblico italiano di venire esposto a quesiti di ordine matematico, cioè a problemini più che a quiz. Sì. No, il quiz, cioè Mike Buongiorno è stato appunto un mago dei quiz, però vede, il quiz è una forma un po' degradata di problema, perché o uno conosce la risposta, ma se non la conosce non c'è nessun modo per risalire alla risposta giusta. Il problemino invece ha sempre in qualche modo il fascino di essere un tragitto verso la scoperta della soluzione. Senta Onsel, ci spieghi assolutamente il titolo del libro, L'algoritmo del parcheggio, Mondadori editore. L'accostamento, una parola tecnica, un algoritmo accostato a una parola assolutamente quotidiana del parcheggio. Ecco, allora come fare? E l'ipotesi nel caso del parcheggio è, immaginiamo di avere 3 possibilità, che ci si presentino 3 possibilità, qual è la possibilità che dobbiamo scegliere, no, per avviare la procedura del parcheggio? Perché nel parcheggio la cosa di maggior disagio è proprio quella macerazione interna, quella incertezza, no, che ci prende. Ci imbarchiamo nella manovra oppure, non so, la scartiamo e andiamo a cercare un parcheggio migliore? Ecco, per questo dico che la matematica ci viene in aiuto. Ebbene, la matematica ci dice che la soluzione migliore è proprio questa: scartare la prima possibilità, anche se è bellissima, no? E invece scegliere la seconda solo se è migliore della prima, altrimenti scegliere la terza. Così siamo sicuri che in media appunto avremo ottimizzato la soluzione. A questo punto, se applichiamo questo principio, non abbiamo più quella fastidiosa, anche direi pure angosciante sensazione così di indecisione nell'imbarcarci, nell'intraprendere una scelta, ma possiamo direttamente scartare la prima e rapidamente scegliere se andare per la seconda o la terza. Le faccio un'ultima domanda, su tutte le pagine dei quotidiani e anche in televisione è uscito questo rapporto sulla come si potrebbe dire, sulla qualità dell'apprendimento, soprattutto nel campo delle scienze, da parte dei nostri ragazzi e ragazze delle scuole medie e medie superiori. Questo rapporto, che però non è solo sull'Italia, ma è in pratica su tutti i paesi del mondo, è un rapporto che si chiama PISA ed è uscito adesso, e mi pare che sia ogni 3-4 anni, l'ultimo era del 2003, e beh, insomma, siamo veramente messi male, soprattutto per quanto riguarda la matematica. Allora, qui si sta commentando questo risultato e si dice il problema sono gli insegnanti, forse anche i libri che non sono come devono essere. Certo, è ovvio che probabilmente lì ci sta il nodo, ma non c'è nessuna altra possibilità per riuscire a mettere in moto un'azione progressiva, perché per cambiare queste cose, se quelli sono gli ingredienti problematici, ci possono essere necessari decenni. Vede, io credo che il modo migliore per ben figurare nei test è prepararsi esattamente per quel test. Allora, se, come non lo so, appunto, gli atleti di nuoto si preparano, fanno tutte le gare in vista delle prossime Olimpiadi tra i 4 anni, se il sistema paese e soprattutto il sistema scolastico avesse come obiettivo il poter ben figurare nel prossimo Olimpiadi, sono sicuro che se ci preparassimo con la serietà, appunto, con la quale i nuotatori si preparano per le Olimpiadi, figureremo meglio. Le la mette sul gioco. No, ma sì, però appunto teniamo presente che il discorso è proprio che la matematica non sono gli insegnanti, perché gli insegnanti a mio avviso sono degli eroi, è proprio sono i programmi ministeriali che molto spesso in tanti contesti relegano questa matematica semplicemente al ruolo di una disciplina dove bisogna obbligare gli studenti ad apprendere determinati algoritmi che poi sono abbastanza astrusi e anche poi alla fine sa eseguire un algoritmo, come quando non so alle medie ti fanno calcolare queste complicatissime espressioni, ma cioè non c'è nulla di divertente, è assolutamente meccanico, cioè alla fine si può solo sbagliare, non c'è abilità, cioè ormai ci sono i computer che lo fanno meglio. La matematica diventa affascinante quando si cerca di scoprire nella realtà quotidiana, la si cala proprio nella realtà quotidiana, ma soprattutto la si rende creativa. Cioè il divertente è inventare degli algoritmi, non eseguire algoritmi inventati dagli altri. Quindi lei dice programmi che lasciano libera questa... maggiore, certamente, però io raccomanderei appunto di seguire un po' quello che fanno i colleghi delle attività sportive, no? Quando si preparano per le Olimpiadi, o prenda il calcio, ecco, adesso appunto tutti magari si preparano per i prossimi europei o per i prossimi mondiali, ecco, allora cerchiamo di prepararci anche per i prossimi test di matematica. Grazie Onsen, buon lavoro. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci.